molto coraggiosa. Tienilo tu che devo salire qua, capito? Queste cose così, mi divertiva questo. Poi alla fine ero anche amico di quelli davanti, ma perciò ho smesso di farlo. Vabbè, dopo che mi ha detto la signora, gli ho detto certo signora, non ti preoccupi, mi stavo divertendo. Lo so, però dai, sono altri giochi divertenti, no? Comunque quello più bravo, secondo me, è Giovanni Bracco. Non credere, è un arrancio così. Diciamo c'è una carabina, piano, ormai scacciata, qua te la devo versare ai carabinieri, mi sembra, no? Perché ci vuole via riparare che è quello che costa. E un'altra me l'ho venduta da poco, era cecoslovacca, vero? Sinceramente, non venduta, veramente ce l'ha uno in vendita, quello, aspetta come si chiama, in via, non mi ricordo la via, ho detto vendila magari 50 euro, ho intenzione di prendermene un'altra migliore, diciamo, di carabina, dove ci posso mettere il cannocchiale, ma naturalmente io ho anche la 22, diciamo, non a pallini, come si chiama, anche mi sono dimenticato il nome, comunque calibro 22, arma proprio, diciamo, arma da fuoco, no? E quella è di una precisione paurosa, è beretta tra l'altro, quella quando ci metto il cannocchiale non sbaglia, solo che di notte non si vede, perché la mia campagna stanno venendo in cinghiale, mi stanno distruggendo tutte, tutto, diciamo, e quando mia moglie dice lasciami stare, è quella se non rientro di giorno mi rompe le balle, e allora diciamo non posso manco sparare ai cinghiali, perché è l'unica, aspettarli di notte, perché mi stanno facendo danno, ma in questo caso ci vorrebbe magari il cannocchiale, come sta dicendo Gianni, non so, lui mi ha detto al raggio ultravioletto, ma credo che il cannocchiale, diciamo, per vedersi di notte sia a raggi infrarossi, se non mi sbaglio, è così Gianni? Sì, ho sbagliato dicendolo, sì, io ce l'ho a 22 lo stesso, c'ho la cosa, la Diana 22, quella col cannocchiale, sì, ho sbagliato dicendolo, hai ragione. La Diana 22, ma arma da fuoco sto dicendo, con le pallottole. No, la mia è a funghetti. La funghezza, io diciamo una carabina a funghetti ce l'ho, ripeto, quella me sto tentando di venderla, ma quella proprio arma, cioè la 22, è un'arma diciamo micidiale, se quella ci mette diciamo le, come si chiama, le cartucce espansive, è micidiale, diciamo che quando colpiscono si allargano, fanno macello, diciamo, però la uso poco naturalmente, raramente, quando per difendere il mio terreno da certi animali pericolosi come il cinghiale eccetera, e per il resto ho preso l'arma vera e propria, il fucile automatico, l'ho preso al chiodo. Perché? Perché non mi andava più di sparare, da un giorno che mi ha fatto l'impressione, diciamo che mi ha portato in campagna dietro un muro e c'erano i conigli solitamente che uscivano di sera e li sparavo, diciamo, alle spalle, diciamo. Beh, un giorno ho sparato due conigli e li ho presi, diciamo che l'ho preso dietro uno, quando sono andato a prenderlo, c'avevo tutte le ossa fracassate, però era ancora vivo e ho avuto l'impressione che mi bestemmiava, come dire, disgraziato, per un pezzo di carne impallinata mi hai distrutto, erano in coppia, fra l'altro avevo ferito anche l'altro, no? Cioè l'altro, maschio e la femmina erano, no? Che amoreggiavano in poche parole, no? Beh, da quel giorno io ho preso il fucile al chiodo, perché hanno fatto veramente impressione quella, un'impressione quella scena lì, come che questi conigli si impressassero contro di me, capito? No? E quindi il fucile, anche il fucile, diciamo, calibro 12, però quello è appeso, appena possibile l'ho perso pure. Porto l'arma. Sì, ce l'avevo. No, ce l'avevo fino a qualche anno fa, adesso no. No, va vabbè, io lo so perché avevo preso la carabina, perché tutti parlavano di carabine, frequenze, io c'ho questo, io c'ho l'altro, e mi è venuta la mania pure a me. Me l'ho presa, mi è sempre fermato, oh, vanno, vanno, vanno. E l'avevo un calibro 22, e diciamo che è datata, però è nuova, fiammata. La tua non è calibro 22, la tua è un calibro 4,5. Ehi, vabbè, volevo dire radiano 22. Buonasera. Ciao. Chi sei, Walter? No, ti... Come? Pino Musco. Capito. No, il calibro già della tua carabina, come ha detto l'amico, è 22, magari sarà carabina, diciamo, moveno 22, però il calibro, tanto per dire, è quello che ti ha detto il tuo amico, 4,5, mi sembra che è 22, è un'arma da fuoco. Vabbè, non sbaglio più, dice. Avanti, ti non sente di più perché è cacciatore. Sì, via. Buonasera a tutti, dai. Sono entrato giusto per correggere questa piccola così discussione che c'era in corso. Niente di che. Ben sentito, Fabio a questa. Ciao a tutti. Ed in quel Rix, nel frattempo sto facendo qualcosa al PC, dai. Capatino, va bene. Andare. Tu non sei più andato a cacciare? No, ho smesso anche io. Ho smesso e vabbè, ma le armi ce le ho sempre qua, non ho, ogni tanto qualche tiro già me lo faccio anche qua. Adesso mi devo prendere una gamo 4,5 o 5, adesso vediamo, devo verificare. E che cosa spari? Le cornacchie? Ma una volta l'ho usata anche a casa di Walter. Ho preso una cornacchia a 30 metri, quindi già ne ha potenza. È vivo pure umida però. Era sopra l'albero, vabbè. Cappa. Le cornacchie sono male, magari la mattina la si tirano in alto. Deve stare molto attento. Questa signora mi ha chiesto se ritornevo questa cornacchietta da nido da sotto la macchina, che doveva uscire dal posto macchina. Ma se me l'avessi fatto, sono andato a Tullio, la casa, e mi sento qua, qua, le due cornacchie, doveva essere il padre e la madre, e si stavano tirando addosso, fate tempo in tempo a entrare, le portoncine chiudono, cazzo, se no mi ha attaccato. Vabbè, si attaccavano, è una paura grossa. No, io qua, vabbè, in campagna, qualcuno ce l'ho sparata, poi la prendevo negli alberi per non mangiare la frutta o la verdura che si pianta, era una cosa che si usava tempo fa e l'ho rifatta, però in un periodo era successo, c'erano talmente tante che quando avevo sparato una cornacchia era rimasta sotto l'albero, no? Quindi alcune cercavano di farla cadere e praticamente ne sono venute tantissime, allora mi sono in assetto di guerra. E ho tirato i tutti. Ehi, quelle che avevo preso una, 7-8, anche dal vicino, sono cadute, ma vabbè, poi ho dovuto smettere perché mia moglie è uscita. Ma cacciati credi, non entra dentro, se respira anche a te. Ah, in campagna tua io passavo da Walter. No, da Walter no. No, ero calibro 12 però, qua a casa. Carugina, te mi rompono belle balle, dalle 6 di mattina si mettono con di qua, sono. Perché mettono a mangiare i gatti, si fanno a mangiare la roba dei gatti, capito? Sì, anche qua, mettono a mangiare i cani miei. E si mangiano le crocchette e quello che trova, vabbè, sono anche la roba, io ho due, non ho tante galline, ho due galline, è un tacchino, dopo che mi ha sbronato l'altro cane, ne ho proprio due, i tacchini e tre galline, adesso sono rimasto solo due, è un tacchino diciamo. Andavano a mangiare anche loro, insieme al, quando mangiavano il mangime per loro, mangiavano anche le cornacchie, le tortole. E vabbè, ma insomma, sono cose che succedono, si sa, no? Ciao caro! Birro, dicemi che tiro ci ha portato da mangiare. Vabbè, ora che mi sono pirato il carniere posso andare a casa, lo riprendete. Divertite, avete tante cose belle, buonanotte, che sono un po' stanco, poi ho fatto anche tardi, sono arrivato alle 8:30 qua a casa già, quindi tra doccia e mangiare sono così. Allora. ci sentiamo magari domani se coincide, se c'è più voglia. Beh, riprendi già, aspetta saluto e poi vado via. E allora ciao Tino, ci sentiamo, dai, buonanotte, avanti. Buonasera a tutti, me. Ciao Cauccio. Vedo me a Cusilli, ciao Antonello. Aspetta un attimo Antonio che stanno salutando a Tino e poi ti faccio entrare, avanti Fabio. Ben arrivato a Cantonello, io ho preso un attimino il punto della situazione perché ho visto che mi sono arrivati 84 messaggi su WhatsApp e stavo cercando di capire come sta andando il mio mondo, scusate. Allora ringrazio tutta Giovanni per i saluti a te. Ciao Antonello, ciao Tino mi sembra fatto, Guerrettino. Io diciamo ho trovato un sistema comunque per le cornacchie, non le sparo più nella mia campagna, devo essere sincero, ho fatto dei mammutone, ho pitturato preso di quel bottiglione grande da 5 litri di plastica, che ho fatto diciamo una specie di viso terribile, l'altro giorno si è spaventato un mio amico, e da quando ho messo quei mammutone le cornacchie non ce ne stanno più venendo, devo essere sincero, magari poi torneranno quando capiranno il trucco, però per il momento non lo sto vedendo manco una, stanno girando tutte alla larga. Ok ragazzi, anch'io faccio QRT e quindi saluto Tino, Gianni, Fabio e Antonello, a risentirci domani magari alla stessa ora. Ok, ciao. Ciao Giovanni, ciao, buonanotte, avanti con Fabio. Kappa, saluto Tino, allora che ha fatto QRT, a quanto ho capito. Giovanni, buon QRT anche a te, o buon QRX che magari bisogna ascoltare mentre stai continuando a lavorare. E ben arrivato Antonello, dai, avanti Antonello. Sì, saluto a tutti da ascoltarsi. Ok, ciao Giovanni, alle prossime, stammi bene, ci sentiamo. Ciao, ciao Antonello. Ascolta, io a te quando entri in radio, diciamo, se metto tutto il volume non riesco a capirci. Adesso per capire come si chiama, a parte il fatto che mi arrivi fortissimo, no? E per capire cosa stai dicendo ho dovuto abbassare il volume. Comunque, ciao, faccio, ripeto, QRT e buonanotte, a risentirci. Addirittura devi abbassare il volume. È strano perché il microfono, quello che in pratica rompe le balle, c'è la mia sorella sotto. Io sto usando il microfono amplificato, quello palmare, cioè qua a casa, la verità, poi non lo so, è strano. Così purtroppo, ti copio un po', se non abbasso il volume non riesco a copiarti, vabbè, ho detto che c'è, che non ci sento molto bene, forse anche per quello. Comunque, a risentirsi in migliori condizioni, mi saluto di nuovo, adesso non so chi sia più l'amico, Antonello, chi era che è entrato all'ultimo, adesso mi ricordo più, vabbè, comunque buonanotte, vai a correre. Sì, vabbè, c'è problema, non so cosa dirti, scusami, il microfono amplificato quello Densei, la verità, palmare, e il coso, stavolta c'era la mia sorella giù a casa con il 4000 che ha sistemato Fabio, quindi figurati tu, io neanche lo sto usando, sono lui lei, l'apparecchio normale, cosa vuoi dire, non so cosa dirti, vabbè. Alle prossime là, lì ci siamo domani, non so, salutoni, un po' di buon tutto alle prossime, buonanotte, avanti che c'è rimasto. Ciao Lello. Già, e beh, come va? Me, adesso mi sto rilassando un po', mi sono curicato, già va bene, domani devo fare la visita, me ne faccio un bel presto. Allora già va bene, visto, Così forte mi senti tu, da non capirmi a un certo punto, anche perché io, cioè, il microfono mio ce l'ha Giovanna, io c'ho il suo, perché l'altro giorno non usciva di radio, quindi a un certo punto devo fare una specie di, cioè, devo togliere il microfono suo dal mio e il mio dal suo, vabbè, a parte che sono quelli che sono, già lo sai. Sono tutti e tre i miei, ma sto usando il Condes 4000, mi sembra strano che a un certo punto esco così, Non lo so, la verità. Va bene, ma male, come sta andando? No, da me ci bene, probabilmente è la vicinanza che ci avvette, da lui arrivi molto più forte. Arriverà ai 9.60 da lui, è vicino a te. No, se fate così, non so cosa dirti. Andrà bene, non c'è problema. Fa girare, sotto anche a Fabio, ben ascoltato anche a lui, e ben sentito. Poi gli altri non lo so chi c'è, perché non ho fatto neanche ascolto, la verità. Siamo solo noi e basta, gli altri sono amici di buco. Gli altri sono amici di buco. Siamo tutti in ascolto, dai. Magari c'è gente in ascolto, ma in frequenza ci siamo noi tre. Antonè, non mi piacerebbe più mica se lo stufa, Poi, poco a stufare ci abbiamo. Dimmi, c'è il cane che è partito, fa un po' di valigia. Antonè, sei un pezzo, cazzo è un casino. Situazione, è un casino. Perché è un casino? Perché c'è la prima lantera, te lo ricordi anche tu, non è che non è che ci stia facendo una fantasia mentale, una sega mentale. L'antenna ce l'avevi prima, l'hai pensata prima di avere da noi, quindi a un certo punto l'antenna c'era sopra il tetto, perché l'abbiamo pensata, se non mi ricordo, l'abbiamo pensata assieme, o sbaglio? No, è un coso un altro, perché non posso mettere i fili fuori, neanche dall'altra parte, perché è caduto casino qua nell'impianto, perché vabbè. Verità, mio padre è andato allo stato a bagno, praticamente ha spaccato due canalette della corrente, perciò i camion non possono più passare lì, dove passano i cavi della parabola, dove passano gli altri cavi, eccetera. E per passare la calata dovevo passarla io, praticamente il tetto è un ben pendente, cioè bisogna essere legati in qualche modo, cioè da solo non ce la faccio a passare il cavo. E lui giù non ce la passare il cavo da solo, già me lo ricordo di quello. Di essere legati e basta, hai capito? Come anche la me, sempre questo, Quindi, vabbè, finché lo passi dentro il tubo dello scarico dell'acqua è un discorso diverso, cioè hai attaccata alla terrazzo tuo, fai dentro fare il foro e va a far cuffia, hai capito? Eia, ma per passare la guaina dentro il tubo, che nel tetto bisogna scendere, sono a parte scoscesa, che è scoscesa di brutto, non poco, e finisce praticamente col raccoglimento delle acque di tutte, perché fa il giro intorno, no? Fa tipo grondagliona gigantesca in cemento armato. Per scendere lì, per forza devo essere legato, devo scendere piano piano, mi devo scendere pancia in giù praticamente e lanciare un peso con un filo, cioè un filo con un piombo in pratica. E lì per forza ci deve essere qualcuno che mi tiene con la corda, perché se no si va di quattro piani, altro che andare al barattino. E appunto per quello, già lo so anch'io quello. Ma non è che devi... lasciatelo adesso, vai, guarda, certo, fai come ti ho detto io, facci scendere, se metti il capo e se la piglia in culo senza guaina, che forse è meglio, fai scendere prima di tutto un piombo, una volta che giù c'è piombo giù i capi scendono da soli e non c'è bisogno di stenderti fino all'angolo del tetto, la verità. Quindi, dammi retta, che è meglio così fare un lavoro. A te viene bene, a me no. Ci vuole un filo, una lenza, con un piombo, in modo che una volta che tu hai trovato il piombo, lo tiri col gancetto. E stai, ci cavi così, piano piano, e io ti rimando là sopra. Qual è il problema? Non ho capito. Allora, il problema è che per mettere il piombo nel buco esatto del tubiale, il tubiale non si vede, devi scendere, perché non puoi lanciare il piombo così, il piombo non entra nel tubiale, capito? Il tubiale non lo vedi, devi scendere una parte del tetto che è molto inclinata e se per caso scivoli un pochino non c'è posto lì, perciò non ti puoi manco attaccare da nessuna parte. Dunque dovevi scendere faccia in giù, piano piano, tipo lucertola, no? piano piano, però ho bisogno di qualcuno che mi tiene legato, per forza. Per il palo non c'è problema, c'è rimasto il palo mio. Avevano messo la vecchia antenna condominiale, poi l'avevano messa sul palo mio, ma su quel palo hanno messo un altro palo, sempre da 4 cm e mezzo, allora 2 pollici, e l'hanno legato con un cazzo di morsetto da punteggio. Questo bisognerebbe anche trovare un sistema per portare giù quel palo, per portarlo giù però, perché non essendo telescopico è legato a metà, bisogna aprire quello e farlo cadere, ma farlo cadere dove? Gli buchiamo il tetto. Beh, adesso non ce l'ho presente la verità, comunque sia, devo vederlo a un certo punto. Poi per fare l'ascesa del cavo non è questo qui il problema. Hai capito? Il cavo si può anche far scendere, quello non ci sono problemi, basta che ci sia un piombo. Hai capito? Piano piano, seguiamo come si chiama e ce la facciamo scendere dentro. Una volta che lui si piombe dentro con la lente e cosa del genere, dopodiché è fatta. Vabbè, io domani vado da Brico, me ne prendo un palo da 4 cm così riusciamo a essere telescopici con quello che c'è già, che è ben fissato, con le zanche e tutto, ce l'appoggio a terra, sulla tavola, c'è la struttura a croce sotto per stabilizzarlo. Noi ci dobbiamo solo montare l'antenna sul palo che ci mettiamo sopra, infilare il palo dentro quello che c'è già e poi fare due buchi col trapano e bloccarlo, capito? Per quello è facile. Dunque domani vado a Brico e prendo una mazzata di guagna, la metto ci cavi dentro, una catena di derivazione e il presa a cavo, in maniera tale che poi usciamo con un cavo per ogni antenna. Penso di portare su 4 cavi, qualcosa del genere. E vabbè, fai così allora, ma in realtà l'avevi eliminata questa guagna che stai dicendo tu, è come la penso io. Fai scendere direttamente i cavi e va a far cuffia a un certo punto, ed è meglio. Poi non so, vedi tu, se mettici una guaina ci metti tutti i cavi dentro la guaina e dopodiché scenderanno giù, cosa vuoi dire io? Sì, mettiamo tutti i cavi dentro la guaina, ne alziamo, ci leghiamo un cordoncino, poi li calo giù con col cordoncino e col piombo e lo faccio scendere nella pluviale, capito? E fin qua ci siamo, dopodiché rimaniamo uno su uno giù, tu dai due colpi al capo, io giù me lo tiro, una volta che è uscito siamo a capo dell'Agena, e ci vogliono 22 metri, non bastano 11. Vabbè, quello che ci vuoi ci mandiamo, quello non è il problema, quindi a un certo punto si farà, l'importante è farlo, a voi si vedrà un pochettino. Avanti Gianni. E anche io ne ho preso 22 litri. Ho preso le 12 quanto tu ho preso e va benissimo. Io ho preso un 58 grigio, ma molto carino. Grigio? E che 58 è? È un 58 CUAL, praticamente lo fanno in Germania. E l'impedenza già è giusta, sì. Cosa già? Non ho capito. L'impedenza del capo già è giusta, sì. Sente quella giusta, è nata apposta. Il discorso è che praticamente usano un materiale di guaina diverso e perciò il colore è diverso. Ah, capo. Ho capito. Vabbè, metti quello. Io ho preso quello e va benissimo, io l'ho avuto 15 anni, non mi ha mai dato problemi. L'ho tolto e l'ho regalato a Luca per piacersi la terra alla ragazza, perché era nuovo, nuovo, l'abbiamo tagliato, non era né bruciato né nulla. Ma io ci volevo mettere la guaina, capito? Scatto di derivazione e guaina sul tetto, per essere un attimino più ordinato, giusto così. Poi vediamo un pochino come va, dai, perché alla fine magari mi rompo il cazzo e per essere dedicato ci butto i cavi direttamente dentro, perché l'installazione è in un punto un po' scomodo e dopo un po' mi rompo. rotto le palle, tanta roba mia, non è un lavoro a un cliente, alla fine voglio il capo che arriva sulla terra e basta, alla fine finirò così. Ma non è comprare di guaina, io 15 anni l'ho avuto senza guaina, non si è rovinato il capo, però sai cosa ho fatto? Ho messo un tirante in più, su quel tirante lì un tirante fitto, ci ho fatto passare, ci ho fatto scendere il filo, ero tutto legato con le fascette e in più l'ho tutto lastrato. E di modo che rimanga sollevato da terra, va direttamente in giù senza toccare in terra. Ma qua non devo fare un tratto orizzontale, devo fare per forza un po' sul petto, devo fare un tratto così, perché è particolare, allora praticamente è un terrazzo, al centro è un piano, sopra questo piano c'è praticamente un altro piccolo rialzo, piccolo alto 2 metri e qualcosa, praticamente è il colmo del tetto dove sono appunto le antenne, e confina così perché c'è l'ascensore, no? Poi però non è tutto in piano il tetto, solo la parte centrale in piano, perché da ogni lato toglie fuori le acque. Queste acque non vanno in grondaia, bensì vanno su una gronda di cemento armato che sarà larga tipo 1 metro e sarà alta 1 metro lo stesso, che fa tutto il giro del palazzo e ogni tanto c'è un fluvio all'intorno. Dunque lo spazio calpestato in piano è poco, e tu muovendoti metti subito il piede da qualche parte che c'è una pendenza, poi in più ci vuole una scala per salire in cima a questa sorta di tettoia di cosa che buca, che a sua volta però non è proprio calpestato, insomma è un posto un po' loppio, un po' pericoloso, uno di quei tetti che dico qui devo fare con un 4 qui davanti e 4 qui dietro, capito? Sì, se vedi che è così pericoloso non lo fare, se non avete la possibilità cosa fare? Io mi sarei arreso, io volete dire c'è un tetto che ci puoi passeggiare sopra, è atterrata, io l'antenna l'ho attaccata sulla cabina dell'ascensore. E cappa, no, se lui mi tiene con la corda, io azzecco il piombo. Poi da su, se siamo in due, uno magari fa una corda, cerca di tirare il palo, l'altro lo molla e buttiamo giù quel palo. Però la vedo dura, iniziare col trapano a bloccarsi la scatola di derivazione, mettere le guaine, secondo me mi sto per rompere le balle, capito? Lo so, magari ci vuole più a dirlo che a farlo, solo che quando vedi ci sono difficoltà un po' ti arrendi, no, io la verità, il tetto è fatto di cartrame ricoperto con della ghiaia. Bene, mi Antonio già lo conosci per tempo. Sì, a voi, non lo conosco, ma c'è stato un sindaco di TV di film. Vabbè, va, che vi lascio, dopo che arriva Alessia, e quindi chiudo, che vado a nanna, ci sentiamo domani mattina, limite, state bene, buon tutto e salutoni. Ciao Fabio, ciao Gianni, ciao, vabbè, l'altro Fabio è in PMR, quindi sono in due frequenze che stiamo provando, vabbè, ci stiamo domani mattina, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Alicia, dove sei in PMR Fabio, assassino? Aspetta, fatto il 45, cos'hai detto? KP2, anzi il figlio di KP2. Non stai scendendo il radio? Sì, sì, già me lo immagino, guarda. Ecco, adesso, come lo ascolti a me? Da poco fondo. Nel 25, sì, a me come mi ascolti di segnale, sto pompando anch'io, Ora, qui la teniamo, Gianni e Fausto. pensieri. Ma guardate, mi devi sentire fermo, era. Hai capito? Quindi non l'ho aumentata, lei quanto ne è? 6928, la di 5. Attenzione, Capri 2, mi ascolti? E ciao, già, buonasera, io ti ascolto, la sto trovando una radio, non è la mia, però. Un 1078, 999 sto trovando. Già, va bene, qual è quello base? Il base, ma non è mio, già, c'ha gli strumenti, c'ha anche il pretero, quindi un giro e quello centrale dei canali, hai capito, un barasone, non è mio, hai capito? Lo sto facendo in controllo perché la FIFA deve controllarlo, anche in capitano stiamo iniziando il don di baracchini già. Gianni, dimmi come ti arrivo io di segnale. Allora, 9.5 già, 9.5, però tieni presente che io ho l'antenna appiccicata che mi regolo di quello stazionario con l'accordatore, cioè guarda qua, guarda lì. Quindi guarda qua. Che cosa è vero? Okay. 9.5 già, non so, come ti arrivo io invece? Prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ida, 9, 5. No, già va bene, quindi glielo metto a posto qua, perché non alimentava, hai capito, con 220 per fare dei condensatori da cambiare, meno male già finì tutti i garaggi, però lì ho parlato un po' di prima intesa, perché se fa alimentare sono scarsa. Hai capito, quindi una mica la linda di sulle. Ok, Fausto, buonasera, riprendi, ti vedete il cambio, capito? Fausto. Ehi, appunto qua sei 928, pompando naturalmente, quindi, figurati tu, io sono in questo momento sono liscio, guarda un po', adesso sono attaccato, sono quasi 600, come va? Bene o male? E anche me, la lancetta, non lo so se è molto generosa la radio, quando parli tu la porta, cioè nel convocato non c'è, non è più, riesci a dire il nome. Dopo lì si fermano, saranno per 40, non lo so. Già ho capito, dai. L'ho modificato bene questo video. Vabbè, esci che sacco. Questo è 2002, hai capito? Quando sto assessorizzato, quindi figurati tu. Così mi è rimasto è questo, quindi. Figurati tu. Ok, staccato adesso, sono liscio. Va bene, non vorrei incendiare il televisore di vicinato. Andare là, riprendi pure tu che io devo fare un attimo una cosa, poi ci riprendo fra poco, da. Grazie. Ma come? Ecco, ma Alice, ma te sta arrivando, sta dormendo? Sì, fra poco arriva qua. Ma non era fuori, cioè? Sì, ma salta come qua. Hai capito, non sta bene Simona, oggi è il compleanno suo, già lo sai anche tu, e quindi oggi l'ha presa male, capito, perché non riusciva a camminare bene, si è messa a piangere, cose del genere, capito, e quindi ho dovuto fare tutto quanto a casa, da solo. Meno male è venuta Alessia, è venuta Giovanna, è venuta cosa, ho preso la torta, giù da sogna stamattina. Ma ti dispiace qua? Niente, perché sapevo altro e vabbè che sono qualche giorno fuori e niente, ma domani siamo Giovanna e vabbè, mi sa che passo anche la terra, tra l'altro devo passare la terra a darti questo Galaxy 2, così com'è al volo, poi lo rivedremo più avanti. E così stavo anche monopolizzando. Niente, lei, non è solo questo. Beh, poi ti volevo dire, ma ti sei sui 446? Ho letto così. Sì, sto parlando con Fabio in 446, STPMR. Vabbè, adesso non ci sono, in questo momento non ci sono, la verità, perché non ci sono, ma domani ci sono comunque, non c'è problema. C'è un mese di ferie, quindi già lo senti, non ho dato l'antenna io, già lo senti anche da casa tua, quindi non c'è problema. Aspetta, ma stavo chiamando quando ho detto non giri. Sì, perché sono dovuto scendere un attimino giù, capito? Se no, sono avanti e indietro quanto tutti i giorni, capito? Una cosa allucinante, capito? Vabbè, già ti chiamo io al limite, quando siamo in 4-4 seti ti chiamo al telefono, così parli anche tu e ci parli anche tu, tanto siete vicini, già vi sentite, non ti preoccupare, già vado a andare io e anche la staffetta col cavetto, e mi va a parlare. Poi Giuseppe già c'ha l'antenna del baracchino, cioè il cavetto è arrivato, quindi già c'è la casa sua, già è tranquillo con l'FM500S, meno male che non c'è stato Ferrari. Cazzo, se siamo vicini non mi sente, io con questo abbezzolino che ho sparo un sacco di roba, anche con l'antenino suo non mi sente per forza, non è quello. Vabbè, da comunque, vabbè, vai, fai quello che stai facendo, non ti voglio trattenere, nel frattempo ho sentito un po' di casino di accordamenti, ma non ho capito cosa è successo. Ci sarà ancora Gianni? Oh Gianni? Io già ci sono. Bella Gianni, e tu 446 non ne agganci? Non ne sto più usando, ce l'ho ma non ne sto più usando. Ma questo è il mio regalo di Natale, per compare Antonello. 446-81-025, allora 7 PMR. E torna in funzione, basta chiamare e adesso me lo porto presto, me lo porto la mattina, così me lo uso di nuovo, ce la faccio lasciarlo da una parte. Chi vuole chiamare non c'è problema, tanto ci sentiamo tutti, io si arriva in qualsiasi posto per quello, io non c'è problema. Vabbè dai, e adesso aspetto che venga Alessia, dopodiché mi seguo. Levo il bandante, ci sentiamo dopo, va giù Gale che si sveglia alle 8:30, quella è colpa tua, la verità, hai saputo il vizio, alle 8:30 mi sveglia, hai capito, se non mi sveglio la prima, mi lega tutto quanto, prima la faccia, poi comincia ad arrivare alla, come si chiama, sotto, e lì mi si girano le balle. Fabio, quella è colpa tua che hai segnato tu, I miei cani non l'ho sempre fatto. È vero che ti ho detto io al tuo cane che abbia la faccia per svegliarti, ma cazzo, non pensavo che capisse l'italiano, cosa ci posso fare io? Prima sopra, poi tocca sotto, quando è sotto, cioè quando è sopra un discorso cambia, ma quando ti tocca sotto, adesso ti... A un certo punto ti metti le mani in mezzo. Ascolta a me, io devo te leccare sopra. Mi sa che se ti lecca sopra è colpa tua. Sono finito. Questa è colpa mia, non sei matto tu, no? Alle 8:30 in punto mi sveglio adesso. Hai capito? Vuole che io mi sveglio alle 8:30. Prima si mette a fianco, prima da una parte, poi dall'altro, dopodiché comincia a leccarmi la faccia per abbagliare, se mi sveglio poi mi toglie la coperta, quindi me ne vado a fare per forza, come ho fatto stamattina. Oh Gianni, hai capito cosa ha detto, che è colpa mia, secondo lui, capito? È lui è zoofilittico. Già è maschio il cane, già lo sai che è maschio, già lo conosci. Però adesso sta diventando un piccoglione, cazzo, la verità, compri la verità. Quando vai al bar, abbiate una birra, se passa un cane vicino a lui, guai. Non ci fa mai che abbiate la birra, perché se ne stessa la bottiglia è tutto. Se passo io col mio cane te lo mangio. Sei sicuro? Sì, no, ho detto che abbaia il cane che può abbaiare, se passo io col mio se lo mangio. Sì. Ha sbagliato del tuo, non gli ha continuato. Poi se esce a McDonald's, questo non lo so, però ma è tranquillo che te lo abbaia. Il mio cane non fa niente a nessun cane, però quando lo abbaiano si avventa. Quando lo abbaiano non lo sopporta. Ma lui abbaia. L'altro giorno si andava a calmo, tranquillo, passano a queste due con la mascherina ma il culo fuori. Bau bau bau, ma tocca. Già si vedi che è maschio. Oh no, beh, ma sei ancora? Sì, a voi, non ti preoccupare, già me lo ricordo, guarda. Ma se dici, guarda, forse è meglio la padrona che il cane, la verità. Quel cane è la sua lunga, te lo dico io. da si vede che faccia che c'ha, non gli ha tutti nuda, lui ha i suoi obiettivi e li porta avanti, frega nulla, capito? È così, te l'ho detto, sì, il tuo cane può essere alto 4 metri, però lui se ce lo punta sotto se lo deve abbagliare, poi ci sarà il casino che succede, però lui se lo deve abbagliare, vedo dai fa. Basta, chiama Tottino. Anda bella, ti lascio a parlare. Sto cominciando a preparare la cosa, ci stiamo domani a tirare a limite. Buonanotte, buon tutto a tutti e tre. Ciao, avanti capi due. Ciao Antonio, buonanotte, sono in dolore. E io ho cominciato solo per trovare il capito. E quando lei a lui che ha domanda per la contrazione per cosa, vuole più sciarpe che lei no. Che avevi bisogno di già con la schiena anche inchinata, ma non devo fare tutti i pezzi con la moretta, perché con la macchina che è rimasto non ne ho trovato, mamma mia santa, tutti i miei già. E il roba di porco che fai con la mora, ma fuori lo fa. Se tocca mora in casa non ne fai già la stessa mia moglie, no? Perché l'altra volta già gli avevo buttato, avevo comprato il piattaforce, la cabina. Figlio ne butto, ma così come un cretino. Caso non abbiamo fatto il conto che poi gli avessero la tasca già. Cioè io non ci avevo più ma come le sono andato e mi ho recuperato, erano precise tre con disegni quelli che mettevano nelle cucine, però erano tre le stesse ma come le poi trovammo le ho detto perché cucinano. E lì poi per fare anche per terra e così in Italia ho messo la mola, che era povera già dappertutto. Dappertutto già, no, domani prima me li segno tutti e dopo esco fuori e scendo giù da farlo e mi faccio giù, perché qui io sono stata con l'ora, poi finisce all'ospedale di nuovo, non credi? No, non fa, una volta ce l'ha fatto un muratore con la casa facendoci il bagno, non riuscivamo più a togliere la porta, siamo stati mesi e mesi pure. Già, allora io l'ho fatta all'operata, come l'ho fatto all'operata, 3 o 4 taglie avevo fatto, poi già, non so se c'era polvere giù, da quando c'era polvere giù, passando il dito, e lì non l'ho stata abilitata, c'era polvere nei luoghi più importanti, tutta la casa c'era dovuto mettere addosso a far pulire, ma per carità, l'ho fatto perché era sempre programma, però prima ho detto che vediamo, ma come si chiama così, ho detto e poi basta, che era la partita, non l'ho usato, perché lì ho prima facendo il dolato la prima, che avevo spuntato la nuova, se no un 5 unità, che aveva la rigine, quindi ho detto, va, c'è qui la carteggio, la struttura, e rivenuto i punti dopo, ma queste lì sono 3 punti di corsa. E niente, già questa la rimetto lo sera perché la lavatrice quella lì funziona alla grande, quindi sì, non è controllata. Poi, da quando sono crollato la seconda, riprendi l'auto. Ehi, a fare sono già. Anche basta il segnale, metti di basso nel barattino che non c'è la penna. In questo devo staccare lo smith, se no me lo rompi. Già, hai sentito Fabio? Basso lo sto sentendo già, basso. Cosa mi ha detto? Che in un baracchino gli arrivi basso, quello dove non c'è l'antenna. Quello che c'è l'antenna ha detto che praticamente gli rompi lo smith. Ascolta, dimmi una cosa, ma la mia radio cos'è, satura? No, negativo, già, negativo. La radio è normalissima, normalissima. E capito, va bene, adesso mi sa che non c'è neanche attaccato, gira a dire, no, qui devo comprare, che ho comprato la batteria non vedo già, ci ho portato la roba in garage, beh, non le ho trovate, no, perché nel mezzo più uscito c'è la batteria che è mezzo scarica, e quindi la devo cambiare, gliela levo e poi le farò uno spezzone per adattarlo al Sommer Camp, quello perché a quello c'ha tutti i canali, c'ha un buon canali, c'ha 66 canali, c'ha i canali Alfa, quelli di Lula, oppure il canale 45, la Puglia che ce l'ha, è capito, quello me l'aveva mandato Giovanni da Minasse, hai capito, e ce l'ho sempre in garage, e quello che lo vai, fa prendilo, però non possiamo fare quello che portarci, perché qui quasi non mi radio già non ho più nel piede il premio. Hai fatto bene, no? Come io adesso sto scendendo con 100 watt, con 100. No, io ho l'altro l'ho mangiato a l'altro grosso l'ho mangiato a è conservato, non è attacco già perché sto temendo a lui, ho detto, non attacca lo stesso, cioè per provare, per fare, sto temendo la qualità della musica, l'altro infatti è per quello, sto quello a tempo che è secco. Quattro salto, no, si ha sempre messo 3-2, ma con quello l'ho fatto così, ma poi già, come si chiama, ci è andata la gente da troppo vicina, se poteva allora, niente, è un gioco, caro, cioè, un formatore, alimentazione, deve giocare, no, sono fatti i caraggi già, è un casino, e poi non volevo disturbare a nessuno, hai capito, potrebbe disturbare qualche cosa qui, e non voglio rogni, e questo, quindi, intanto, lo schiacciamo, lo facciamo funzionare, una volta ce ne sta lì con più di cose, poi ci abbassiamo, accogliamo, questo sale anche eccezionale questo, come se non sale, perché è il mio padre, la mano, capito, pronta a passarle, la passare su l'ordine, metti su la passare, poi passare un boccale di, ecco, capito, ogni tanto già sale, se fa un passaggio lungo, eccolo qua, a zero, se faccio passaggio lungo già sale, però adesso l'accordatore ti sfugge di mano, ti sfugge di mano, adesso è proprio a zero, non è nulla, però molte volte ti sfugge, tu mi arrivi benissimo già, mi arrivi, non so, se tu mi metti 95 arrivo così. Sì, in d'accordo a te, ma come così, giusto, in un ospizio, perché c'è anche l'altra marcia, amica, qui stiamo andando in loco, se lo metto in Nike, hai capito, allora però l'antenna non ce la fa perché te lo passa, e pensa che con l'altro passo, se aumenta, poco fa quello che c'ha 66 canali, beh, lo sai che niente lo... non lo faceva neanche scappare perché c'era qualche protezione lineare, perché con lui spara 10 e ci sono il caos spara 11 rapido e niente, quindi ho detto quello così, così si ripara il 45 e lui senza questa cosa buia che funziona, quindi Fausto con quella roba lì non mi sente e anche io non so messo bene Fausto niente. Fausto sempre a salire di mezzo che faceva tre cose in casa, chissà quando sarà, riprendi. Sì, K. Fabio, comunque, niente, ti volevo dire che quel finale al quale hai aggiunto due valvole nasce con un problema, ma non sono le valvole, non è neanche la temperatura. Il problema principale di quel lineare è l'alimentatore. Quelle valvole lì, se al posto di avere 850 watt, così come gli dà quell'alimentatore, ne prendessero 1100, così come devono prendere, toglierebbero fuori 250 watt puliti, però, non di picco, puliti. E perciò, insomma, non sarebbe 600, ma sarebbero ben di più, sarebbero 750. È inutile aggiungere valvole se il problema è il trasformatore, perché il trasformatore comunque sia, se tu ci fai caso, dopo che è finito riscaldato, dopo un quarto d'ora, il secondario è già caldo, hai notato? Non riesco già a percepire bene, anche perché c'è il QRM, c'è una cosa, l'altra sera l'ho dovuto chiudere tutto, ok, poi mi vedono, ok. Stavo dicendo già, non so se tra l'altro non so fosse un ricevitore all'esclavito della broadcasting di quelle radio fenomenale già, l'ho controllato a tuo fratello, se c'è un piccato vedo un trasformatore, quando la radio non ce l'hai, quindi ho rimontato, l'ho ritornata agli antichi splendori, che ha controllato lo schema, adesso mi devo fare solo. Se la parola è anche la parlante perché io stesso le ho collegate su questo trasformatore, invece non è così, io bisogna adesso fare il collegamento in serie perché io la sto alimentando a 115 con l'autotrasformatore che conta, perché sta a 115, e quindi una famiglia bisogna fare, come si chiama, il collegamento in serie, e poi collegare ai 12 volts dei piedini di una valvola, riprendi. Allora, Fabio ha detto poco fa che il problema non è nelle valvole di quel amplificatore, che praticamente il problema è nell'alimentazione. Sì, sì, infatti l'alimentazione, se tu io ho pensato che io l'ho fatto, perché potevo fare anche un'altra cosa, però ci hanno trasformato le cose, di meno, cioè, hai capito, e non riuscite a farle accendere, a farle dare, però è sempre una cosa volante già. Sì, è l'alimentazione, perché poi diciamo, per come ti tu attacchi il baracchino con un alimentatore da lampese, come così sono le valvole, perché c'è un assorbimento, mi sembra a valvola di 300 mm di ampere. Cioè, quindi niente, l'ho ritornato, è a 4, non lo nuovo, però qui non è attacco già. Solo questo la tiro, non è attacco perché qua la casino non è buio, mi capisca. E quindi teniamo la roba come questo, non è mio orario, questo è di Madonna, capito? Anche questo è la ferma, se funziona, ho dato una controllata. E come sapete, come sapete che non andava, ma accendeva per un po', andava, come sapete, l'alimentazione, è una bomba, una bomba di nuovo, lo conosci una bomba di nuovo io? Sì, io lo conosco. Ascolta, ma perché cosa ci sono? Donne che modulano? No, le campidane, non mi fare dire altro, mi campidano, una persona pizza. Poi ne hanno anche altre radio, hai capito? Ne hanno altre, quando ero giù, c'era il battaglione Iglesia, mi ero andato da l'Unione Militare già, Unionisti, quindi tre canali, ho fatto il pistole, l'ho comandato a Caglia, qui era il redattore di notte per le trame, tutto quello che fa 3 anni più di me, però ce li hanno, perché sono molto amico del fratello di Battista e del capito, ma lui ha detto, ma siccome viene spesso a mezzo, se lo puoi guardare già, aveva salito, ho detto, una controllata per un paio di giorni, hai capito, perché ho altre cose da fare già, e l'ho messo, diciamo, a posto, non che sono un tecnico, hai capito, se no lui non c'è mercato più, però qualche cosa di queste cose già riesco a farla, hai capito già, allora niente, bisogna che modulano, ma lui dice, quindi penso lui ha detto qualche volta, fino a pochi anni fa, 3 anni fa lo usavano, lui è un'altra di Cagliari, hai capito, cos'è di Grigia, una di Cagliari e niente, gli apparati ci diamo, ce ne sono tantissimi, però se non è così già, l'antenna molte volte si scassa, io adesso ho le tacche, cioè, non sono più un ragazzino, ecco, prima si scassava, andavi, ti arrampicavi, e così è un capo di gente che è più grande di me, che hai capito, c'è l'apparato ma non c'è antenna, quindi per girare. Ma se ti serve una mano lo sai che te la diamo, non c'è problema. Quando ti serve una mano basta dirlo. Sì, a certo giorno ti ha detto che il tempo è buono, però se facevo così in casa, hai capito, sì, ogni giorno una ce n'è, ogni giorno ce n'è una, hai capito. No, avevo al fare, c'ho anche tu quei nocciuti. Ce la devo caricare sul portellone, sul collo della macchina, non c'è pagare, vedo che ce lo scende lì, l'iniziale, io buco, io sopra col camino, io buco sopra, io buco, e mi faccio saltare dei panni così, dei lati, e poi con i colori poi servono a stringere il tubo che ci scenderebbe sul telescopico, capito? Perché non ho fatto un buon lavoro via, perché lì c'è la strada principale, nel cale è incasato anche lì, ma l'antenna, sono dolori, riprendi. La fissi bene, un po' cadere. Dopo dai, io vi saluto, che devo andare a visitarmi, domani devo fare una visita all'ospedale, dai. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, ciao Fabio, ciao Capri2 e a tutti gli amici ascoltoni. Ciao Gianni, ti saluto. 44 buon tutto, ci vediamo domani, salutami pure Capri che tanto alla fine finisce qua perché non ci sentiamo, in bocca al lupo per domani, incrociamo le dita. Kappa, vabbè, non la visita ortopedica. Avanti KP2, ti saluta anche Fabio, vai. Non ti sento, no, non lo senti, quindi ti saluta. Sì, questo è ciao già, allora non ti preoccupare in tutto, vai, se mi ha fatto domani, se già sei per Claudio, hai capito lui che accende, ma molto forte, se non devo dare una mano per domani mattina, hai capito che c'è un po' di lontano alle concentre. E niente, ciao Fabio, allora ci sentiamo all'improvviso, adesso non ti preoccupare di aver sentito, perché con il problema facciamo fatica a tirarti fuori, comunque, di nuovo, diciamo saluti, buon tutto per domani, ciao ciao, capire il fiore sì.